Sembra davvero un bollettino di guerra, nel senso che ho fatto uno scroll di vari licenziamenti di differente natura, che però appunto hanno ognuno da un lato delle caratteristiche peculiari, che, no, distinguerei il caso di Ikea e anche, diciamo, l'arroganza di Amazon da, diciamo, l'uso e getto dei lavori in somministrazione di FCA, che però appunto differenze che poi vengono accumulate invece da un tratto secondo me ormai comune a queste aziende, grosse aziende, in questo caso parliamo di grosse aziende, delle piccole non abbiamo molte notizie, ma sicuramente troveremo anche lì scavando cose molto simili, ovvero l'arroganza in qualche modo e l'autoritarismo con cui grandi aziende o anche grandi agenzie di somministrazione si impongono contro i lavoratori nelle scelte appunto di licenziare o meno. Guarderei inizialmente alla questione IKEA, dove appunto quando parliamo di lavoro parliamone bene, questa è una cosa che ci diciamo ormai da più di un anno, noi proviamo a farlo, ovvero l'accento è stato posto in entrambi i casi sul fatto che appunto la lavoratrice di Milano è una donna con un figlio disabile e il lavoratore di Bari appunto anche lui è un padre di famiglia. Beh, se fosse successa la stessa identica cosa a una donna o un uomo, lavoratrice senza figli, sarebbe stata la stessa gravità, non so come dire. Ovviamente la barbarie, come la definisco io, nei confronti di una donna che ha davvero delle responsabilità di figli, a cui dire un figlio disabile è superiore, però ecco, è in qualche modo il modo in cui IKEA si rapporta a questi lavoratori, perché tra l'altro da quello che si legge oggi sulla stampa la lavoratrice aveva già chiesto di poter cambiare almeno il turno del giovedì, poter entrare alle 9, la cosa che hanno fatto è spostarla di reparto ma mantenerle l'orario, ma lei non potendo assolvere a questa cosa appunto esigenze familiari, poi è stata licenziata. La lettera è proprio quella secondo cui non ci sono margini assoluti per proseguire rapporti di lavoro anche temporaneamente, quindi nessun accordo, nessuna possibilità di negoziazione. La stessa cosa viene fatta in qualche modo a Bari, poi ci troviamo appunto FCA invece un caso attraverso cui intanto ricordiamo che quelle quasi 1000 assunzioni vennero sbandierate in TV da Marchionne e Renzi all'alba del 4 dicembre ed erano però assunzioni appunto in somministrazione a termine, ovvero lavoratori prestati temporaneamente a FCA che non vengono di per sé licenziati ma a cui non viene rinnovato il contratto. Poi il metodo del messaggino, cioè questa forma di intermediazione, di disintermediazione, no, tra la manpower e il lavoratore, anche in qualche modo di un rapporto informale, no? Noi ormai utilizziamo molto gli sms, WhatsApp, e questo quasi ci fa sentire delle persone, no? Ricevere un messaggino ci fa sentire delle persone, non più il numero, quando invece è brutale. Poi appunto aggiorniamoci, ci vediamo al bar, noi discutiamo, insomma forme abbastanza rampanti di nessuna responsabilità da parte della. Ma infatti è appunto è quello che colpisce, una sorta di orgoglio padronale che rialza la testa, ma adesso non vorrei sempre andare a finire lì, però è il Jobs Act con la liberalizzazione del licenziamento de facto che ha dato questa arroganza alle aziende? Per quanto riguarda IKEA potremmo anche dire sì, che effettivamente avendo liberalizzato e dato appunto molta più flessibilità nei licenziamenti alle imprese, quindi potere alle imprese di fare esattamente quello che vogliono nel momento che vogliono e con i metodi anche che vogliono, questo è uno degli effetti del Jobs Act. Però diciamo che il potere delle aziende, ma anche appunto se guardiamo poi FCA attraverso la somministrazione, viene da più lontano. Ricordiamocelo sempre che il Jobs Act è, diciamo, l'ultimo momento, quello forse più meschino della riforma del mercato e del diritto del lavoro, ma non di certo l'unico tassello. Però possiamo anche dire che questa arroganza padronale, che poi appunto è supportata da leggi ingiuste, no, dove diciamo sempre che l'abuso ormai è diventato legge, si sta scontrando con una cosa che forse fino all'anno scorso, due anni fa, non emergeva tanto, il fatto appunto che i facchini e i magazzini di Amazon si rivoltino almeno in questo momento a Castel San Giovanni, ma l'hanno fatto anche, come abbiamo detto la settimana scorsa, in Germania e in Polonia, che la solidarietà dei colleghi appunto della lavoratrice di IKEA arrivi non soltanto, diciamo, nello stabilimento in provincia di Milano, ma come stai dicendo tu anche adesso nelle sedi emiliana, è un dato in qualche modo di una dignità e di una solidarietà che va ritrovate e che si ritrova, e a questo forse non erano abituati da lungo corso, quindi forse ecco che c'è uno spiraglio, è esattamente questa cosa qui, come del resto è stato per fattorini di Deliveroo, che sono scesi appunto anche loro in piazza in mobilitazione sempre nel Black Friday e che oggi ritornano a protestare a Milano, perché se vi ricordate avevano spedito una lettera alla dirigenza, all'amministrazione di Deliveroo, senza ovviamente avere nessuna risposta. Una battuta forse merita una battuta a parte, diciamo merita il caso di Melegatti, no? Sembra quasi che il lavoro venga fatto per beneficenza. Questo perché, lo spiego magari agli ascoltatori e ascoltatrici, sta girando da alcuni giorni un messaggio su WhatsApp, che nei fatti è vero, che invita, come dire, tutti noi a acquistare Pandori Melegatti, perché così si permette a queste persone di lavorare. Ma dipende dai cittadini se le persone hanno diritto o meno a un posto di lavoro? No, sicuramente non dipende dai cittadini, ma dipende, diciamo, da un contesto e da una politica più generale rispetto alla produzione. Come ci siamo detti sempre, è uno dei tasselli di cui parliamo fin troppo poco. Sicuramente non basta la solidarietà temporanea di noi cittadini consumatori per salvare per qualche mese dei posti di lavoro e quindi degli stipendi. Si può scambiare il diritto al lavoro, quindi anche la possibilità di non essere licenziati, attraverso, non voglio dire la carità, ma comunque sempre beneficenza si tratta. La questione, appunto, di Melegatti è un'altra grande vertenza che interessa, diciamo, quello stabilimento da mesi, su cui non ci sono assolutamente risposte, a cui ovviamente deve rispondere la politica, deve rispondere la Melegatti, le organizzazioni dei lavoratori, quindi i sindacati. Cioè, ne possiamo aiutarli per, appunto, cosa, un mese, e dopodiché che succede? Cioè, vengono comunque licenziati, cassa integrazione e così via. Diversamente il caso invece della solidarietà consumatori, quindi cittadini e lavoratori, nel caso, appunto, di Amazon, dove il sistema è ben più complesso. Il fatto, appunto, di non comprare i libri, gli elettrodomestici o il pane, i detersivi su Amazon, no, fa sì anche che resista un tessuto sociale di produzione locale, di come si vivono e cosa rappresentano le città oggi, perché sennò poi abbiamo uno svuotamento nel centro con la messa a rendita, no? Sappiamo degli immobili per il turismo eccetera, e poi dei grandi poli commerciali, della grande distribuzione, che sappiamo benissimo avere tutti altri problemi per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro alle periferie. A Bologna, ecco, Fico mi sembra una delle nuove novità.